Una delle più grandi ambizioni del cristiano è conoscere la volontà di Dio. Non conosco credente che non si sia posto, o non che si ponga questo interrogativo, e questo perché non vi è una formula. Se la volontà di Dio fosse individuabile in una formula, i figli di Dio farebbero meno sciocchezze. Quando parliamo della volontà di Dio dobbiamo fare una distinzione. Vi è una volontà generale per tutti, e questa è conosciuta nella sua parola. I 10 comandamenti sono appunto un riassunto della volontà di Dio. Nessuno può mettere in dubbio, per esempio, che Dio non voglia che noi abbiamo altri dei, che dobbiamo onorare i nostri genitori. Poi vi è una volontà specifica, personale, che non si trova scritta nella sua parola. Non posso trovare nella parola di Dio elementi utili a indicare se devo comprare un mobile oppure no, se devo andare in ferie in montagna o al mare, se devo sposare quella persona o un'altra. Proprio perché non vi sono indicazioni precise, è possibile interpretare ciò che leggiamo nelle scritture in modo sbagliato. La parola di Dio cita molte persone che pensavano di interpretare correttamente la volontà di Dio in certi eventi della vita, per poi mettere in evidenza che le loro conclusioni erano il frutto delle loro immaginazioni. Ricordiamo alcuni episodi. Il re Saul aveva dell'odio nei confronti di Davide e quando vide la possibilità di poterlo uccidere disse: Dio lo ha consegnato nelle mie mani, 1 Samuele 23, 7. Il re Saul, come tanti credenti, attribuiva a Dio un'occasione per realizzare i suoi malsani propositi. Anche Davide ebbe occasione di uccidere Saul e allora Abishai disse a Davide: Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Perciò ti prego, lascia che lo colpisca con la lancia e lo inchiodi a terra con un sol colpo. Non ci sarà bisogno di un secondo. 1 Samuele 26, 8. Ma Davide comprese che questa possibilità di uccidere Saul non era nei piani di Dio. Quando Rabshakeh, un generale del re d'Assiria, volle conquistare Gerusalemme, disse ai suoi abitanti: Ora, sono io forse salito senza l'Eterno contro questo luogo? Per distruggerlo? L'Eterno mi ha detto: Sali contro questo paese e distruggilo. 2 Re 18 e 25. Questo generale stava attribuendo i suoi obiettivi bellici alla volontà di Dio. Questi esempi dimostrano come sia facile attribuire alla volontà di Dio la realizzazione delle nostre concupiscenze o dei nostri scopi malvagi. Proprio perché conoscere la volontà specifica di Dio è difficile, cercheremo di considerare come sia possibile evitare degli errori. Come in tutte le cose, l'Eterno Dio non è condizionato da un unico procedimento, perciò ho ravvisato tre metodi che do usa per far. Leggiamo il Salmo 32 scritto dal re Davide, il dolce cantore di Israele. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'era è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti, mandate grida di gioia voi tutti, retti di cuore. Chi ha scritto questa preghiera è stato un uomo che ha fatto un'esperienza personale con l'Eterno. Dio è stato perdonato dai suoi peccati, ha gustato questo perdono, ed ora è felice. Questo è il presupposto per poter conoscere il volere di Dio. Se uno non ha avuto un'esperienza con Cristo, un'esperienza dopo la quale egli sa di avere tutti i peccati perdonati, non può pretendere di essere guidato da Lui. Davide ha camminato al cospetto dell'Eterno Dio, ma, come per ogni essere umano, ha commesso una trasgressione. Non si è crogiolato nel piacere diabolico del suo errore, non ha fatto del vittimismo, ma ha detto: «Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato». Proprio perché l'Eterno Dio è un Dio misericordioso, il solo Dio che può perdonare, Davide lo ha invocato e confessato i suoi errori. In seguito Davide, ispirato dallo Spirito Santo, sente la voce di Dio che gli dice: «Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te». In queste promesse vi sono racchiusi i tre metodi che Dio usa per parlare ai suoi figli. Esaminiamoli. Primo metodo: ti ammaestrerò. Dio vuole da noi ubbidienza e non curiosità. Molte persone cercano la volontà di Dio come cercano di conoscere fatti storici o un brano poetico. Sono soddisfatti intellettualmente, ma non vi è nessun desiderio di coinvolgimento. Ma Dio non fa conoscere la sua volontà ai curiosi. Perciò, il primo passo per conoscere la volontà di Dio è quello di uscire da un puro intellettualismo e avere il desiderio di mettere in pratica ciò che si impara. Solo con questa attitudine siamo in grado di comprendere l'ammaestramento di Dio. Il verbo ammaestrare è certamente un sinonimo di insegnare, ma con una sfumatura. Noi non diciamo che abbiamo ammaestrato un bambino, ma un animale. Perciò il verbo ammaestrare è un verbo che si usa per far comprendere che si è insegnato ad un animale. Agli animali non si può insegnare una lezione, come si fa con i bambini. Esso si può solo ammaestrare. L'animale impara facendo centinaia di volte le stesse cose, e spesso con maniere forti. Così fa Dio con coloro che ama. A volte usa metodi forti, li costringe in situazioni negative, gli fa ripetere le stesse cose affinché, e a volte, fino a quando non hanno imparato. Quante esperienze dobbiamo ripetere prima di capire la volontà di Dio? Sì, Dio a volte è costretto a trattarci come degli animali. Questo metodo non deve essere offensivo per nessuno. Innanzitutto perché una delle più belle identificazioni che il credente possa fare è quella di essere un animale, cioè una pecora. Chi di noi non ha mai detto con gioia: «L'Eterno è il mio pastore», e non c'è che è niente di più stupido di una pecora? Inoltre dagli animali abbiamo molto da imparare, per questo Gesù disse: «Guardate gli uccelli del cielo». Chi desidera conoscere la volontà di Dio deve accogliere questo primo metodo di istruzione. Deve accettare che la sua cocciuta volontà spesso inizia ad essere piegata solo con i metodi forti e ripetitivi. Quando l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi: «Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri», non è improbabile che l'Apostolo volesse intendere che le sofferenze della vita avevano costretti i Tessalonicesi ad amarsi. Del resto, com'è possibile esercitare l'amore se non vi è ragione di amare? Dunque, per imparare la volontà di Dio dobbiamo essere prima di tutto umili sotto la potente mano di Dio, il quale ci ammaestra con maniere forti. Dobbiamo riconoscere che imparare la volontà di Dio col metodo dell'ammaestramento non piace a nessuno. Già di per sé imparare una lezione è faticoso, quanto più doverla ripetere più volte. Eppure, come a scuola o apprendendo un mestiere, spesso noi impariamo solo ripetendo le cose. Ho visto un documentario per televisione dove dei bambini dovevano imparare a compiere degli esercizi acrobatici. L'insegnante usava una bacchetta di legno perché fossero sempre attenti. Così è anche nel campo spirituale. L'Apostolo Paolo, un uomo di Dio di esempio per tutti, non è diventato tale perché aveva un'inclinazione a essere sottomesso alle circostanze della vita, ma anche lui ha dovuto imparare mediante il duro ammaestramento della disciplina. Egli aveva obbedito alla chiamata di predicare l'Evangelo. Questo ministero comportava tante rinunce, rinunce che egli ha espresso molto bene nella sua lettera ai Filippesi. Dai credenti di Filippi l'Apostolo aveva ricevuto un sostegno economico e riconoscente per questo, scrive: «Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica». Questa testimonianza mette in evidenza che l'Apostolo Paolo non aveva saputo reagire nel modo giusto le prime volte che si è trovato ad essere nell'indigenza. Molto probabilmente il suo animo non era contento. Così pure quando egli era nell'abbondanza, non aveva avuto la giusta attitudine di saper apprezzare l'abbondanza o di accontentarsi nell'indigenza. Quanto deve essere stato difficile per Paolo bastare a se stesso in ogni condizione, come dicono altre traduzioni, eppure dover aver realizzato la fame 10, 20, 30 volte, e dopo aver vissuto nell'abbondanza per altrettante volte, solo allora ha imparato, come un animale addomesticato, a vivere con il giusto spirito ogni situazione della vita. Il suo grido, «Tutto posso in colui che mi rende forte», come rende il testo greco, è riferito a queste situazioni della vita, e non a qualsiasi cosa. Come nessuno nasce maestro, così nessuno nasce già in grado di saper affrontare la vita con il giusto atteggiamento. Dobbiamo umilmente chinarci davanti a Dio, accettando il fatto che impariamo molte, e forse tutte le cose, mediante un lungo ammaestramento. Secondo metodo, ti insegnerò. Il verbo insegnare deriva dal latino insegnare, il cui significato è di imprimere segni. Si insegna. Quando si comunica il sapere, si guida nell'apprendimento di una disciplina, di un'arte, di una scienza, esponendole metodicamente gli elementi, i principi, le regole e giovandosi dei vari sussidi didattici. È evidente che il verbo insegnare non può essere applicato ad un animale, ma solo nei confronti di un proprio simile. Il maestro insegna al fanciullo con parole, spiegazioni o fatti. Un capo officina insegna al principiante. Quindi il verbo insegnare implica che ci sia un atteggiamento di dipendenza, di sottomissione, una posizione subordinata atta ad apprendere. Così agisce Dio nei confronti dei suoi figli. Quando si è accettata la sua sovranità, quando si accettano i suoi metodi ripetitivi, quando si accetta di essere come degli animali che imparano a forza di reiterazioni, allora, e solo allora, siamo in condizioni di accettare anche la sua superiorità in quanto ad insegnamento. Solo allora noi accettiamo che dobbiamo imparare da Dio, che non dobbiamo confidare sul nostro discernimento o buon senso. Nessuno di noi confessa il contrario, ma l'esperienza ci mostra che spesso seguiamo le nostre vie e non quelle di Dio e che dobbiamo imparare a diffidare del nostro buon senso. Purtroppo per arrivare a questo stadio ci vuole del tempo, molto tempo. Quando Dio insegna, noi impariamo, ascoltiamo, riflettiamo. Chi non mette in discussione le sue certezze, non i dubbi, perché essi sono già messi in discussione, non sta imparando nulla da Dio. Noi impariamo solo quando siamo certi di non sapere e non confidiamo sul nostro discernimento. E per molti figli di Dio, questa beata posizione arriva solo alla fine della loro vita, dopo aver accumulato innumerevoli errori. Dio insegna quando tutto il nostro essere, anima, corpo, spirito, è in una posizione di apprendimento. Sta scritto che l'uomo che ascolta potrà sempre parlare, Proverbi 21 e 28. Questo proverbio mette in evidenza che prima di insegnare è necessario saper ascoltare. E saper ascoltare significa prestare attenzione per imparare, apprendere. La divinità dei cristiani è un Dio che parla e proprio perché parla il primo comandamento, antecedente e sovrastante a ogni altro comandamento, è ascolta. Ascoltare allo scopo di imparare. Come ammaestra Dio, il Dio dei cristiani ammaestra in mille modi e in mille maniere i suoi figli. Ma prima di tutto istruisce con la sua parola. In merito nella sua ultima lettera al suo figlio spirituale Timoteo, l'apostolo Paolo scrisse le seguenti parole: tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. 2 Timoteo 3:16-17. L'apostolo avrebbe potuto additare a Timoteo per indurlo a imparare le cose giuste da fare, ma indicò la parola di Dio. Perseverando in una lettura quotidiana fatta con uno spirito di ascolto e al fine di metterne in pratica il contenuto, la parola di Dio è in grado di insegnare ciò che è giusto o sbagliato, è in grado di convincere di peccato quando lo si compie, è in grado di educare, cioè ammaestrare chi vive per Dio, a compiere ogni opera buona preparata prima della fondazione del mondo. Queste non sono solo parole o un buon ragionamento. Chi con assiduità legge, medita, studia e impara a memoria la parola di Dio, sa che essa purifica la sua coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Ebrei 9:14. Non tutti hanno compreso il valore della parola di Dio. Vedono in essa un semplice libro di ordini e divieti spesso antiquati e discutibili. Trovano interessanti le storie del popolo di Israele, di Gesù e degli Apostoli, ma niente più. Ma la Scrittura è la potenza liberatrice di Dio. Ho letto la vincente testimonianza di un omosessuale che, benché predicasse la parola di Dio, continuava in tale pratica. Dopo molte vicissitudini, fu liberato dalla propria situazione, imparando a memoria interi capitoli della Bibbia. Noi possiamo imparare a memoria interi capitoli della Divina Commedia, dei Promessi Sposi o di qualsiasi altra opera letteraria, senza che questo produca in noi un cambiamento. La parola di Dio ha il potere di cambiare la nostra mente e di conseguenza il nostro atteggiamento verso la vita. Come disse un filosofo, non sono le cose che ci turbano, ma l'opinione che abbiano di esse. Niente di più vero. Ho realizzato quanto siano valide le promesse di Dio in una sera particolare della mia vita. Mi sono svegliato di soprassalto e percepivo intorno a me una presenza oscura, maligna. Avevo nella mia mente la figura di un leone come volesse divorarmi. Ero assalito dal terrore. Capivo che non avevo via di scampo. Anche se con tutta la mia forza cercavo di cacciare via i pensieri negativi. Intrappolato com'ero, cominciai a ringraziare ripetutamente Dio perché ero un suo figlio. Prima con la mente, ma poiché non ottenevo nessun risultato, cominciai a lodarlo e ringraziarlo a voce alta. Lo ringraziai 1, 2, 3, non so quante volte, ma man mano che lodavo Dio perché gli appartenevo, avvertivo che questa presenza se ne andava. Pochi minuti dopo ripresi a dormire realizzando ciò che disse il salmista: in pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Salmo 4:8. È stata un'esperienza che non avrei voluto fare, ma poiché ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio, questa esperienza ha fortificato la mia fede e anche quella di coloro i quali l'ho raccontata. Terzo metodo, ti consiglierò. Dopo aver ammaestrato, dopo aver insegnato, ora Dio arriva ai consigli. Noi dobbiamo accettare questa progressiva rivelazione e metodo di Dio. Il nostro Creatore non agisce così per un capriccio, ma perché non è possibile da parte sua consigliare se prima non si sono imparate le lezioni precedenti, come non è possibile imparare la matematica se prima non si conoscono i numeri. Mentre appena siamo diventati figli di Dio, egli ci deve obbligare a compiere certe cose, poi in seguito ci insegna: ora è arrivato il momento di avere un rapporto alla pari. E un rapporto non più da uomo animale o insegnante bambino, ma da persona a persona. In questo rapporto non ammaestra, non insegna, ma consiglia. Ora Dio non urla, non usa metodi forti, non impartisce lezioni. ma come un amico consiglia ciò che è giusto. Consiglia perché è amico, perché vuole rimanere amico. Gesù disse ai suoi discepoli dopo alcuni anni che era stato con loro: «Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio». Giovanni 15 e 15. Questo è il progetto di Dio per i suoi figli: essere un amico per chi crede in Lui affinché impari la sua volontà. Purtroppo, quando un figlio di Dio non percepisce i consigli, costringe Dio a fargli ripetere l'anno scolastico nell'aula di chi deve imparare. E se un figlio di Dio non apprende in questa aula, allora Dio lo tratta come un animale, gli fa ripetere sempre le stesse cose finché non è stato ammaestrato. Non tutti hanno compreso che l'amicizia di Dio non è automatica. Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando». Gesù non disse a coloro che lo seguivano e credevano in Lui che erano tutti Suoi amici: «Il Maestro offre l'amicizia, ma questa è condizionata dall'obbedienza ai Suoi ordini». Sta scritto nel Libro dei Proverbi: «L'Eterno ha in abominio l'uomo perverso, ma il suo consiglio è per gli uomini retti». Proverbi 3:32. La rettitudine, dunque, è la condizione per poter ascoltare i consigli di Dio. Vi è una promessa dell'Apostolo Giovanni che, alla luce di queste riflessioni, acquista un significato maggiore. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. 1 Giovanni 3:21-22. L'Apostolo afferma che il Figlio di Dio è esaudito nelle preghiere, perché osserva i comandamenti di Dio e perché fa le cose che Gli sono gradite. Non conosco cosa maggiore che l'osservanza dei comandamenti di Dio, ma per certo i Suoi consigli si trovano nell'adempiere le cose che Lui gradisce. Chi si ferma alla stretta legge, chi vede la parola di Dio, un precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui, un po' là, Isaia 28:10, non è amico di Dio. Il Dio dei cristiani non vuole essere una divinità lontana, autoritaria, che comanda perché ha l'esigenza di essere ubbidito. L'Eterno Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e per questo il suo ultimo scopo è quello di avere con la sua creatura un rapporto di amicizia, senza ovviamente togliere a lui la sua sovranità. Proprio perché il suo grande obiettivo, Dio ammaestra, insegna, per arrivare ad avere un rapporto di colloquio, di amicizia. L'ammaestramento, l'insegnamento non sono fine a se stessi, ma sono come una stampella per chi è momentaneamente zoppo. Sono mezzi momentanei per ottenere un rapporto più intimo. Il desiderio di avere un rapporto con Lui di amicizia è talmente alto che l'Eterno Dio, con tanto amore, continua col dire: «Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano». Dio non si accontenta di amarci, vuole anche che noi ci avviciniamo a Lui con il desiderio di avvicinarci. Egli desidera farci conoscere la Sua volontà più di quello che desideriamo noi, e per questo a volte ci obbliga con le circostanze della vita. L'Eterno Dio non vuole trattarci come degli animali, perciò ci implora di non comportarci come delle bestie. Usa il termine implora non nel senso di chi si sente inferiore e chiede per ottenere un favore, ma come colui che, mosso da un insondabile amore, chiede con lacrime di andare a Lui. L'Eterno Dio sta dicendo, con l'esempio del cavallo e del mulo: «Non costringetemi ad usare le maniere forti, non obbligatemi a farvi soffrire, perché un morso fa soffrire quando adempia al suo scopo, ma di vostra spontanea volontà avvicinatevi a me». Vi sono credenti che si avvicinano a Dio, che leggono le Scritture, pregano, frequentano le riunioni di chiesa, testimoniano, solo quando si trovano in grosse difficoltà. Se si vuole conoscere la volontà di Dio, questo non è sufficiente. Chi non sa ascoltare i consigli di Dio nella tranquilla quotidianità, non udirà la sua voce quando lo vorrà. Forse il reale problema per conoscere la volontà di Dio non è la nostra ignoranza, ma l'atteggiamento sbagliato nei confronti dei Suoi metodi.